Ipanqui Radio, c'est fini aujourd'hui. Donc on vous laisse avec les amis Mickaël et tous les amis de Gilo di Boa. Et au revoir à jeudi prochain, toujours à 8h. Il est précisément 21h. Mentre no s'aturi el motor, no sé mai si arribaré a trobar-la, no sé mai on para la propera estació. Sé d'on vinc i puc imaginar-me un cel blau com a destinació, però ara no tinc ganes d'aturar-me. Faig camí i no em cal pensar en el retorn. No conec la vida que m'espera allà al davant, però a cada pas una incertesa emocionant. Baixo el vidre de la finestreta i el vent em rossa els cabells. Tinc la ment en blanc però el cor em vessa. No sé cap on vaig, però sé que algú m'hi està esperant. I si estic fugint, qui ho pot retreure? I si sóc estrany, qui m'ho dirà? Jo viatjo per la carretera i com el paisatge a poc jo vaig canviant. No conec la vida que m'espera allà al davant, però a cada pas una incertesa emocionant. Tot el que tenia ho vaig perdre, però ara em sento lliure i molt millor, i estimo els que solia. dibattito e di approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dallo studio di Bruxelles, Roberto e Michele in regia, in collegamento oggi sia Alessandra che Annalisa. Ragazze, ci sentite? Sì, Roberto, vi sentiamo, grazie. Buonasera ai nostri radioascoltatori, dunque una nuova puntata di Giro di Boa. Alessandra, mi senti? Buonasera. Sì, buonasera Annalisa, buonasera ai ragazzi in studio. Dunque, un'altra puntata di Giro di Boa, questa sera ci occupiamo nuovamente di Medio Oriente, siamo sempre al passo con l'attualità, avrete sentito tutti la notizia di oggi, Gheddafi catturato e ucciso dai ribelli a Sirte. E, come ho detto, Medio Oriente, il tema di questa serata è principalmente l'Egitto, Israele, quanto è avvenuto nei giorni scorsi, nelle ultime settimane. Lo scorso 17 ottobre è stato liberato dopo 5 anni di prigionia il caporale dell'esercito israeliano Gilad Shalit in cambio della liberazione di 1027 prigionieri palestinesi, accordo avvenuto anche grazie alla mediazione dell'Egitto. Egitto che nel frattempo si prepara alle prime elezioni libere del dopo Mubarak previste per il 28 novembre. Un Egitto però che ha appena visto duri scontri tra le forze di sicurezza e i cristiani copti e che il mese scorso ha visto l'assalto all'ambasciata israeliana al Cairo. Dunque facciamo il punto della situazione su quanto sta avvenendo con il nostro ospite di questa sera. Il nostro ospite di questa sera è già in collegamento con noi, si tratta di Antonio Ferrari. Antonio, ci sei? Buonasera a tutti. Buonasera Antonio, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Come i nostri amici radioascoltatori ricorderanno, Antonio è già stato nostro ospite diverse volte, giornalista, è stato per più di 30 anni inviato del Corriere della Sera, esperto di Medio Oriente, è attualmente editorialista da Atene e tiene settimanalmente la videorubrica su Corriere.it Voci dal Vicino Oriente. Antonio, prima di passare all'argomento della serata, che come diceva Annalisa in apertura è l'Egitto, non possiamo non fare una battuta su Gheddafi, visto quello che è successo oggi. Sul tuo articolo, che è già apparso su Corriere.it, tu definisci Gheddafi istrione, inaffidabile, bugiardo, ambiguo, oscuro e violento. Però allo stesso tempo dici, una cosa bisogna onestamente ammettere, Gheddafi ci mancherà. Ci puoi spiegare molto brevemente che cosa intendevi per questo? Ma io innanzitutto ho scritto questo articolo l'estate scorsa, quando c'era la possibilità che Gheddafi venisse preso. Sì, ci mancherà, e poi voglio fare una considerazione su questa giornata libica. Ci mancherà perché per un giornalista avere di fronte un creativo, sia pure nella sua follia, e non un uomo e molto spesso i vertici arabi, per esempio la novia mortale, mentre Gheddafi usciva con le sue, uscite così, a dare un po' di pepe, no, a quelle situazioni, insomma devo dire ci mancherà perché ci ha sempre dato da scrivere, ci ha sempre dato da commentare, e questo io credo che sia agli occhi di un giornalista, se siamo sinceri, un pregio. Certo, la guerra di Libia non è stata una guerra sbagliata, perché Gheddafi è un tiranno, è stato un tiranno, Gheddafi ha negato la libertà al suo popolo. Ricordiamo, la Libia è un paese estremamente ricco, 4 milioni e poco più di abitanti e un petrolio straordinario che noi abbiamo ottenuto praticamente a chilometro zero, quindi con dei grandi vantaggi, però un personaggio che invece di far vivere veramente bene il suo popolo, magari gli dava anche da mangiare, non c'erano problemi da questo punto di vista, però non gli dava la libertà. Certo, quindi una guerra giusta, perché Gheddafi aveva fatto delle cose insopportabili e inaccettabili contro tutti i suoi oppositori, però con una fine assolutamente sbagliata, o meglio, la fine che molti temevano. E cioè Gheddafi catturato dopo una lunga guerra durata 8 mesi, quindi voleva dire che non era così facile scalzare Gheddafi, dopo essere stato catturato e ferito qualcuno lo ha ucciso. Ora la domanda è sempre questa, è capitato in Romania per Ceausescu, è capitato in tante altre situazioni, perché è stato ucciso? Soltanto così qualche ribelle che non ha obbedito agli ordini, che si è lasciato, diciamo, travolgere dalla passione e dall'odio politico, oppure è stato ucciso perché magari un Gheddafi al Tribunale Internazionale dell'AIA trasportato là avrebbe potuto dire cose imbarazzanti per tutto il codazzo di politici e non soltanto europei che hanno fatto la fila a Tripoli baciandogli le guance e qualcheduno le mani? È una domanda che secondo me è giusto porsi, anche perché dopo Gheddafi non sappiamo che cosa accadrà. Diamo pure credito a questo consiglio transitorio di trasformarsi in un'istituzione e di agire democraticamente, però è un punto interrogativo gigantito da un altro elemento, e cioè che molti dei funzionari, dei dirigenti del Consiglio transitorio sono stati per oltre 30 anni fedelissimi di Gheddafi e lo hanno lasciato quando hanno capito che la stella di Gheddafi stava tramontando. Queste sono le domande che ci si pone. E quindi sono le cose che sono state scritte. Certo, un personaggio, io l'ho incontrato più volte, è un personaggio così, un istrione, è quasi divertente, ecco, se il nostro fosse un lavoro prettamente divertente e non avessimo a che fare con delle persone che poi alla fine giocano con la vita di tanti altri e con la loro libertà, beh, ci potremmo anche soltanto divertire. Nel suo caso no, non ci siamo mai divertiti, ci ha dato sempre da scrivere, e questo per onestà va ammesso. Antonio, grazie, come sempre spunti interessantissimi di discussione, ci sarebbe da parlare tanto, ma è sicuramente un tema che riprenderemo con più tempo nelle prossime puntate di Giro di Boa. Passando al più specifico al tema di questa serata, quindi nell'introduzione avevo ricordato la liberazione di Gilad Shalit dopo cinque anni di blitz falliti per liberarlo e di trattative, appunto un accordo tra Israele e i palestinesi, grazie anche alla mediazione egiziana. Come dicevo, Shalit liberato in cambio della liberazione di 1027 palestinesi, un accordo che ha suscitato anche molte polemiche in Israele. Nell'elenco dei prigionieri liberati spiccano fra l'altro i nomi per esempio di Alam Tamimi, accusato di essere complice di un attentato suicida in un ristorante di Gerusalemme. Antonio, ti vorrei chiedere, tu come vedi questo, diciamo, come vedi questo accordo? Si può parlare di una vittoria per Hamas? E qual è stato il ruolo del governo egiziano in questa mediazione? Ma vedete, è una storia molto particolare, ma non tanto perché si è deciso di scambiare un prigioniero con 1027 prigionieri palestinesi. Israele ha fatto della liberazione di qualsiasi suo cittadino, sia esso un civile ma soprattutto un militare, una questione d'onore che non comportava qualsiasi prezzo che poteva essere e doveva essere affrontato. Quindi non deve scandalizzare tanto questo, è già accaduto nel passato un nugolo di volte. E direi che su questa vicenda si sono sommate tre debolezze che assieme hanno quasi dato una forza. Mi spiego meglio. Israele veniva da un momento estremamente difficile, perché le rivolte arabe hanno lambito non soltanto lo Stato ebraico, ma poi sono entrate, ha detto, in Israele con delle manifestazioni che non erano legate chiaramente alla lotta per la democrazia, perché in Israele c'è la democrazia, ma erano legate a diritti del lavoro, diritti a pagare affitti meno cari, ad avere soprattutto da parte dei giovani un ruolo garantito, un ruolo più forte nella società, una società che li ha sempre ascoltati poco. E Israele di questo ha avuto timore. Poi Israele soffre della grande contraddizione di avere un governo totalmente sbilanciato, cioè un governo con un primo ministro che non ha neppure vinto le elezioni, perché le elezioni le aveva vinte il partito che fondò Sharon, cioè Kadima, guidato da Tzipi Livni, ma non avendo questo potuto portare una coalizione che raccogliesse la maggioranza dei deputati della Knesset, ecco che è intervenuto Netanyahu, arrivato secondo, con una coalizione fortemente sbilanciata sull'estrema destra con Avigdor Lieberman e sia pure con qualche piccolo correttivo verso la sinistra, e cioè fagocitando Ehud Barak. Ehud Barak, ex primo ministro israeliano, uomo del partito laburista, o ex laburista, perché oggi ha cambiato, è uscito dal partito. Ora, debolezza quindi di Israele indubbia, perché Netanyahu, immaginate che quando va all'estero, soprattutto in certi paesi europei o anche in America, non si fa accompagnare da Lieberman, perché è troppo imbarazzante. Lieberman ha posizioni addirittura razziste, ma si fa accompagnare da Barak, che è molto più presentabile. È vero che nonostante alcuni tentativi di riappacificarsi con gli americani, che erano molto critici nei confronti per esempio del fatto di non avere fermato la costruzione nelle colonie e quindi di avere ingrandito le colonie, ma insomma essendo prigioniero della destra, lui non l'ha voluto fare, e con gli americani c'è stato gelo. Adesso è chiaro che stiamo alla vigilia della fine del primo mandato di Barack Obama, quindi è chiaro che non si vogliono creare polemiche, soprattutto con le potentissime lobby ebraiche americane, ma sta di fatto che Netanyahu col suo discorso all'ONU qualche punto lo aveva riconquistato. Certo, poi era scivolato quasi nel ridicolo dicendo: io ho dato ai palestinesi più offerte, più determinazione a risolvere il nostro problema di quanto avesse fatto Yitzhak Rabin. Ora, questa sembra quasi una cosa inaccettabile, perché Yitzhak Rabin non soltanto è l'uomo che ha avviato il dialogo con Arafat, ma è l'uomo che ha pagato per questo dialogo con la vita, ucciso da un estremista ebreo. Netanyahu era molto debole, e su questo gioca la sua carta. Dicevo, mi gioco la carta, visto che tutti mi chiedono di liberare Shalit, e io accetto di trattare la liberazione di Shalit. Che ottiene? I palestinesi, Hamas voleva presentarsi come un interlocutore, non più come il diavolo, ma come un interlocutore più credibile. Voleva riavvicinarsi a Fatah, perché Fatah, cioè la componente laica, cioè non possono esistere due stati palestinesi, lo stato dei laici e lo stato dei confessionali e dei fondamentalisti. Non solo, Hamas si era ricostruito quasi una semi-verginità istituzionale, avendo al suo estremo altre forze qaediste che Hamas cercava di contenere a Gaza. Ecco allora che, accettando questo rapporto con Israele, accettando lo scambio, anche Hamas si pone su un piedistallo, voglio dire, di autorevolezza istituzionale, e quindi diventa un pochino più forte. E poi c'è l'Egitto. Sappiamo che Israele aveva un grande alleato concreto, che per 30 anni gli ha garantito assoluta continuità di quell'accordo di pace coraggioso firmato da Sadat con Hashem Begin ormai tantissimi anni fa, 1979, ma a questo punto, dopo la caduta di Mubarak e il rischio che fondamentalisti possano in qualche misura condizionare le prossime elezioni egiziane, non solo l'attacco all'ambasciata israeliana al Cairo, quindi uno schiaffo pesante a questa pace fredda, magari fredda, ma comunque sempre pace, che ha resistito veramente tanto, veramente più di 30 anni, ecco che l'Egitto, così lavorando sia con i palestinesi laici, sia con i palestinesi di Hamas, è diventato lo sponsor di questo scambio, quindi facendo un favore a Israele e facendo anche un favore ai palestinesi. Ecco quindi, tra tre debolezze, l'Egitto ha da dimostrare di non essere una debolezza, che vedremo cosa succederà alle prossime elezioni, ne è venuta fuori una forza dalla quale sono avvantaggiati tutti. Netanyahu è contento perché dal punto di vista interno ha guadagnato qualche cosa, anche se corre il rischio che alcuni personaggi, essendo stati coinvolti in attentati terroristici, potrebbero tornare al cattivo lavoro di un tempo e quindi creargli dei problemi. Però ha rischiato e ce l'ha fatta, ha ottenuto qualche punto e ha riguadagnato prestigio. Hamas è diventato più credibile anche con Fatah, e Abu Mazen ha fatto l'impossibile per far capire che questa liberazione in fondo è una liberazione per tutti i palestinesi e non soltanto in maggioranza per Hamas, a causa di Hamas, la liberazione, mi riferisco, dei per ora 400 e passa, che poi diventeranno 1027 palestinesi, e gli egiziani in questo momento incastrano il risultato politico di una mediazione vinta. Quindi ecco come a volte in una situazione difficile le operazioni possono risultare, diciamo, in vincita e non in perdita, anche se si parte da posizioni molto delicate. Antonio, tu credi che comunque il Consiglio Militare egiziano in patria possa godere di questa mediazione vinta, cioè di questa opera che, come tu hai ci hai dettagliato molto, molto approfonditamente, è stata un'opera lunga e comunque possibile grazie ad un panorama molto complesso e ad azioni incominciate molto tempo fa. Ma appunto, secondo te, perché quando noi pensiamo all'Egitto, ultimamente pensiamo comunque ad un paese non in pericolo, ma comunque molto traballante. Secondo te questa mediazione vinta, dunque questa vittoria sul piano della diplomazia, potrebbe dare un apporto positivo al Consiglio Militare Egiziano al suo interno? Ma bisogna vedere quali possono essere gli equilibri all'interno dei militari egiziani. Sicuramente in tempi brevi sì, questo non c'è il minimo dubbio. In tempi, diciamo, un pochino più lunghi, neanche poi tanto, perché le elezioni sono tra poco più di un mese, beh, non lo so quanto questo potrà pesare all'interno di una campagna elettorale, di una fase finale di una campagna elettorale che, ahimè, vede soltanto una forza davvero organizzata, è quella che molti temono, e cioè i Fratelli Musulmani. Ora, che diciamo i militari possano in qualche modo avere riescano ad avvantaggiarsi con questo successo, in dubbio perché è stato riconosciuto da tutti, beh, è possibile che questo poi possa tradursi seriamente in qualcosa di importante. Beh, questo lo vedremo non il 27 novembre, il 28 novembre, ma lo vedremo subito dopo, quando ci sarà non soltanto da creare un governo credibile, e speriamo che non sia un governo militare, ma che sia un governo laico, e che i progressisti possano fare la loro parte. Ce ne sono alcuni tra i candidati veramente autorevoli e credibili, e dall'altra parte che le forze armate che prima rappresentavano, diciamo, il dietro sipario del potere, non dimentichiamo che tutti gli egiziani da Nasser in poi erano rappresentanti delle forze armate, lo era Sadat, lo è stato Mubarak, sappiano fare bene il loro mestiere tutori e di custodi della sicurezza dello Stato, però che lasciano la politica nelle mani dei laici, di quelli che dovrebbero cercare di portare un paese che è sempre stato, che ha avuto un'anima particolarmente moderata, verso quella secolarizzazione politica che sarebbe auspicabile per il primo e più importante paese arabo. E queste sono le domande che ci si pone, ma io credo tanto che ci sia un problema, soprattutto con i copti, tra i musulmani in generale, egiziani, che mi sembrano, al di là di alcuni estremisti, ma gli estremisti sa che ci siano un po' da tutte le parti, che siano abbastanza credibili e moderati, somigliano in qualche modo chiave araba ai turchi, anche se hanno due storie molto ma molto diverse. I turchi sono molto più avanti, oggi forse anche lo stesso Egitto guarda al modello turco per, diciamo, prefigurare, nella speranza, insomma, che questo diventi anche la realtà per il Cairo. Ora, io credo che questo conflitto dei copti sia un conflitto artificiale. perché è vero che noi siamo stati nella fase in cui, soprattutto dopo l'11 settembre, stati anni in cui in fondo si tentava di fare una grande confusione tra Islam e terrorismo, cioè si voleva quasi sostenere che l'Islam fosse sinonimo di terrorismo. È stata una delle operazioni più sbagliate, più infami, se si vuole, perché ha accentuato le differenze invece di avvicinare queste differenze e portare dei punti comuni. Io credo che oggi la situazione sia molto cambiata. Non solo, va anche ricordato che i copti tradizionalmente della Chiesa orientale cristiana, e hanno sempre guardato più con attenzione, pur conservando l'orgoglio della loro fede cristiana, a un rapporto con le persone, con i loro fratelli musulmani, piuttosto che cercare di un abbraccio, come dire, protettivo da parte dei cristiani occidentali. Questo è un dato di fatto che forse a qualcuno era sfuggito, ma io credo che sia un dato di fatto abbastanza importante, che non vale soltanto per i copti, vale anche per altre minoranze cristiane. Certo, se dovessero prevalere, se le elezioni ci portassero in Egitto ad un'affermazione, e comunque un'affermazione pericolosa da parte dei fratelli musulmani e della parte quindi più estremista del mondo musulmano, beh, allora sì che si potrebbero creare delle condizioni estremamente pericolose. È quello che bisogna evitare, perché nel dialogo tra cristiani e musulmani, dialogo che c'è sempre stato, soprattutto in Oriente, anzi forse in Oriente era salvaguardato proprio dalla struttura stessa delle diverse società, diciamo, medio orientali, arabe, eccetera, beh, insomma, se mettere in crisi questo tipo di rapporto sarebbe estremamente pericoloso, e ahimè, questo però lo devo dire, il rischio di un'affermazione, diciamo, fondamentalista, di un'affermazione o comunque di un'avanzata in Egitto, come in Libia, come in Tunisia e forse da qualche altra parte, per quello ci dovrebbe veramente molto preoccupare. Antonio, ti vorrei chiedere se puoi chiarire per i nostri radioascoltatori quelle che sono state le dinamiche alla base degli scontri nelle settimane scorse tra le forze di sicurezza e i copti. Che cosa è successo? Se non sbaglio, questo ha portato alla morte di 25 persone, più di 300 feriti. Anche un altro dato, se non sbaglio, correggimi, al tempo di Mubarak scontri di questo tipo tra forze di sicurezza, comunque i copti, non si sono mai verificati, o sbaglio? No, direi che gli scontri più terribili sono accaduti proprio all'inizio della crisi egiziana, e cioè quando ci fu la famosa strage di Alessandria, la strage di Capodanno, e poi quest'altro attentato. Sì, ce ne sono stati altri ancora, ma diciamo, sotto Mubarak questo non accadeva. Io vorrei dire che si è fatta anche qui grande confusione, perché è facile ed è molto superficiale, secondo me, fare degli azzardati paragoni, Mubarak come Ben Ali, Mubarak come Gheddafi. Sono storie diverse. Mubarak è stato un bastione di stabilità, non si può per 30 anni aver ritenuto quest'uomo un accettabile partner da parte di tutto lo Stato. Ma non può dire no, è un tiranno, è un criminale, se ne deve andare. Se n'è andato, benissimo, si volta pagina, cerchiamo la democrazia. Il problema qual è? È che democrazia significa anche controllo e restraint, cioè impedire che certe forze estreme prevalgano. La cosa dei copti ha avuto un prologo molto particolare, cioè lo smantellamento, l'abbattimento di una chiesa copta nell'Alto Nilo, una decisione secondo me assolutamente sciocca, stupida, visto il momento, da parte di uno dei responsabili di quella regione, che ha provocato un'immediata reazione tra il quartier generale dei copti al Cairo. Ricordiamo che i copti rappresentano in tutte le loro articolazioni diciamo più del 10% della popolazione egiziana, quasi il 15%. quindi non sono pochi e sono anche potenti e sono anche stati importanti nella, diciamo, costruzione della moderna società egiziana. Un po' come dappertutto nel mondo arabo, non hanno mai potuto raggiungere un posto di assoluto vertice. Credo che il massimo che abbiano avuto è un ministro degli esteri aggiunto, come copto, e mi ricordo Boutros Ghali, che era appunto copto, come è accaduto in Giordania, come è accaduto in altri paesi. Però facevano parte di quella diciamo media borghesia del commercio, degli affari, che ha rappresentato tantissimo in Egitto. Ora, gli scontri non sono avvenuti tra popolazione musulmana e copti, cristiani copti per le vie del Cairo sul lungo Nilo, sono avvenuti tra copti che hanno reagito nei confronti di, delle forze di sicurezza, delle forze militarizzate egiziane. Le forze militarizzate egiziane, essi forze di sicurezza o militari cubi, hanno reagito sparando e hanno fatto questa orrenda strage che ha fatto gridare vendetta. Ma da lì a dire che c'è stata, ecco la superficialità che io cerco di contestare, che c'è stato un coinvolgimento, diciamo, anticristiano da parte dei musulmani, beh sì, certo, le forze armate egiziane in maggioranza, anzi la quasi totalità, sono composte da musulmani, ma lì direi che è mancato il manico, è mancata la guida, perché mi rifiuto di credere che la giunta egiziana, in attesa delle elezioni, fosse pronta a favorire, anzi abbia favorito, diciamo, una sparatoria ad altezza uomo contro i copti. Quindi io credo che ci sia stato proprio questa incapacità, questo fatto. Piazza Tahrir è stata la grande speranza, ma poi dalla grande speranza la traduzione in realtà se ne corre. Antonio, siamo arrivati in conclusione al nostro collegamento. Prima di salutarti però volevo fare un'ultima battuta, volevo ricordare ai nostri amici radioascoltatori che tu sei in collegamento da Atene, dunque dalla Grecia, un paese paralizzato da quasi 48 ore, quasi 10.000 persone manifestano ora ad Atene, in quanto il Parlamento è pronto ad approvare le nuove misure di austerità che devono essere approvate prima del summit sulla crisi dell'euro che si avrà questa domenica a Bruxelles. Io ti volevo chiedere qual è la tua esperienza di questo periodo di profonda crisi in Grecia e soprattutto credi che la società greca possa sopravvivere a questa crisi, con queste profonde lacerazioni? 20.000 persone in strada sono parecchie. Ma ieri ci devono forse anche di più. Io adesso sono proprio rientrato, devo andare a fare un collegamento televisivo proprio da Piazza Sintagma davanti al Parlamento, dove c'era dove è in corso questo voto drammatico, eccetera. Devo dire che pur avendo fatto l'inviato di guerra, mi sono dovuto abituare anche nella pacifica a vivere una situazione quasi da conflitto civile. Questa è la premessa. Le cose vanno molto male, ma molto male perché? Non soltanto perché c'è da fare queste misure molto dure per ottenere l'ultima tranche degli aiuti del primo prestito, non del secondo, ma perché per avere gli altri 109 miliardi di euro di cui la Grecia avrà bisogno nei prossimi mesi, nel prossimo anno, nei prossimi due anni, io non so che cosa potrà accadere. Forse soltanto una decisione seria da parte dell'Unione Europea, con il Fondo Salva Stati, eccetera, potrà evitare il collasso e la bancarotta. Ecco, se volete qualche immagine, questa è una città anche abbastanza allegra, che oggi è diventata una città triste. Qualcuno ha parlato di triste epoch, invece di belle epoch, triste epoch. Questa è la tristezza in Grecia, si inverte. Allora, sciopero di tutti. Ieri la Grecia, e in parte anche oggi, è stato un paese completamente isolato e prigioniero di se stesso. Niente aerei, niente taxi, niente treni, niente di niente, chiusi gli uffici pubblici, chiuse le scuole, in sciopero i medici, in sciopero tutti, praticamente un paese che si è fermato ed è la terza volta, se la quinta volta dall'inizio della crisi, è un paese che si è fermato e continua a fermarsi, un paese che non si sa più e si domanda dove andrà. Certo, ci sono i disperati che dicono torniamo alla dracma, facciamo qualcosa, che sarebbe un disastro, perché i debiti contratti dalla Grecia sono in euro, non in dracme, quindi si correrebbe il rischio di pagarli ancora di più. Però è evidente che oggi questa gente non ce la fa più. Il rischio che diciamo il costo sociale sia eccessivo, sia impossibile da affrontare, è un rischio reale. E io, quando esistono questi rischi reali, penso sempre a una cosa, la cosa che mi fa più paura è l'arrivo dell'uomo della provvidenza, lo dico tra 70.000 virgolette, ne abbiamo già visti in tanti paesi, che dice mo adesso ci penso io, e comincia magari a offendere quello che era l'equilibrio democratico di un paese. Questa è la cosa che più fa paura, e basterebbe fare un giro per il centro di Atene in queste ore, con così curandosi il naso con un asciugamano imbevuto di qualcosa per non essere intossicato dai lacrimogeni, e uno si rende conto che cosa vuol dire. Come ha detto ieri l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, beh, insomma, un paese vuole morire, e c'è forse qualcuno che non ha capito che se si continua così, se non si prende qualche decisione coraggiosa, sia da parte dell'Europa, da parte dei greci che la stanno prendendo, e ha altro coraggio, ben di più, ma anche da parte di chi avrebbe potuto forse aiutarli per tempo e non l'ha fatto, beh, questo è un paese che sia veramente, veramente tanto, questo è profondamente ingiusto. Prodi diceva non facciamo morire la Grecia. Antonio, dobbiamo purtroppo chiudere il nostro collegamento come sempre, grazie per il tuo interessantissimo contributo ai vari temi che abbiamo trattato questa sera, e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buonasera Antonio. Buonasera. Facciamo ora una pausa musicale e poi rientreremo in collegamento con il secondo tema di questa sera. Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormi, burger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Ah. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei mai. vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, nel cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai, non mi dimenticare mai. Buonasera cari radioascoltatori di Radio Alma, passiamo subito la parola ad Annalisa e ad Alessandra per il secondo ospite della serata. Grazie mille Roberto. Il secondo tema della serata sarà ancora una volta l'economia, più precisamente l'investitura ufficiale del nuovo presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che è avvenuta ieri, che succede a Jean-Claude Trichet. Draghi assumerà l'incarico dal 1° di novembre, dunque fra qualche giorno. Automaticamente Draghi lascerà libera la poltrona di governatore della Banca Centrale Italiana. Nomina questa che spetta al governo, ma che ad ora è ancora vacante. Ne parliamo questa sera con il nostro ospite in collegamento con noi, che prima cosa ringraziamo tanto per la pazienza che ha dimostrato fino adesso. Annalisa, ce lo vuoi presentare? Sì, buonasera al nostro ospite questa sera, Antonio Poglio Sallimbeni, esperto di economia internazionale, giornalista, segue da anni i principali eventi economici e monetari europei e mondiali, dal 2002 corrispondente a Bruxelles per l'agenzia Sole 24 Radio Core, ha lavorato per 20 anni all'Unità. Autore di diversi libri, nel 2003 ha scritto con Pietro Greco Lo sviluppo insostenibile, edito da Bruno Mondadori. Tiene un blog sul Sole 24 Ore.com dal titolo Europa. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Ci senti? Buonasera, ricordiamo ai nostri ascoltatori che Antonio è già stato nostro ospite nei mesi scorsi a giro di Boa. Antonio, vorrei ritornare su quanto Alessandra ha menzionato nell'introduzione, quindi Draghi che assumerà dal 1° di novembre l'incarico di Presidente della Banca Centrale Europea. E oggi tutti si aspettavano la nomina da parte di Berlusconi sul successore di Draghi come governatore della Banca Centrale in Italia. Ci sono diversi nomi, c'è la questione di Lorenzo Vigni Smaghi, membro del direttivo della Banca Centrale Europea. Con Draghi a capo della Banca Centrale, il suo posto dovrebbe andare ad un francese. Antonio, come si stanno mettendo le cose, quali sono le dinamiche? Ma per la verità è una notizia veramente recente, dell'ultima mezz'ora direi. In realtà il Premier Silvio Berlusconi ha chiamato oggi a Palazzo Chigi Ignazio Visco, che è membro del direttorio della Banca d'Italia, e gli ha comunicato che è questa l'indicazione del governo italiano per la successione di Mario Draghi alla testa della Banca d'Italia. Quindi il nuovo governatore sarà Ignazio Visco. Antonio, giusto una piccola precisazione, noi siamo in diretta ormai quasi da un'ora, per cui ecco, fa molto piacere sapere che c'è una news delle ultime mezz'ora che tu ci puoi dare in diretta, perché noi non eravamo al corrente, fino alle 9 non c'era ancora nessuna notizia, almeno sui giornali italiani che sono online, per cui continua pure. Sì, il processo di nomina del governatore della Banca d'Italia è piuttosto complesso. Si tratta di un'azione congiunta che vede impegnati il capo del governo da una parte, che deve fare una proposta dopo aver discusso e deciso la cosa in Consiglio dei Ministri. La proposta del governo italiano viene comunicata per lettera al Consiglio Superiore della Banca d'Italia, il quale si pronuncia a favore o contro, dopodiché la nomina passa al capo dello Stato, per cui si può dire che questa nomina è di concerto fra il capo del governo e il capo dello Stato, passando per il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, che non è un organismo dirigente della Banca d'Italia, nel senso che chi dirige la Banca d'Italia è il governatore e il Consiglio Esecutivo, sia il direttorio, come si chiama nel caso della Banca d'Italia. La decisione del governo taglia la testa al toro, come si dice. Come è noto ormai da mesi, la nomina del successore di Mario Draghi è stata al centro di un braccio di ferro fra il ministro dell'economia Giulio Tremonti e Silvio Berlusconi. Tremonti aveva un suo cavallo sul quale ha puntato, ed era Vittorio Grilli, attuale direttore generale del Tesoro. In lizza c'era anche Lorenzo Vigni Smaghi, che attualmente è membro italiano del board, cioè del consiglio esecutivo della Banca Centrale Europea, il quale si deve dimettere perché altrimenti verrebbe meno il criterio della rappresentanza nazionale presso nei vertici della Banca Centrale Europea, e se, diventando un italiano presidente della Banca Centrale Europea al posto del francese Jean-Claude Trichet. Terzo candidato sul quale invece puntava lo stesso Draghi alla sua successione era l'attuale direttore generale Fabrizio Saccomanni. Questo alla fine c'è stato per settimane un braccio di ferro, diciamo, ai massimi livelli tra il potere politico e la Banca d'Italia e all'interno del partito di Forza Italia, del partito di maggioranza della coalizione di governo, lo scontro fra Berlusconi e Tremonti. In questo caso si può dire che la soluzione di Ignazio Visco, che è un ottimo banchiere centrale, che tra l'altro conosco personalmente perché per una decina d'anni ho seguito le vicende della Banca d'Italia quando stavo a Roma, diciamo che taglia la testa al toro, perché non si fa uno sgarbo a Tremonti in quanto non viene accettato il candidato chiesto dalla Banca d'Italia, dal governatore Mario Draghi. È una nomina sulla quale la Banca d'Italia non ha nulla da eccepire, perché si tratta di un funzionario di altissimo livello, riconosciuto anche in campo internazionale. È stato per esempio capo economista dell'OCSE per diversi anni e ha seguito ultimamente tutte le vicende della crisi finanziaria, della recessione, in tutti gli organismi internazionali in cui è rappresentata l'Italia. E d'altra parte non viene accettato il candidato di Mario Draghi, diciamo, che sarebbe appunto Fabrizio Saccomanni. Quindi diciamo un mezzo schiaffo a Mario Draghi, ma anche una carezza a tutto tondo, ecco. Antonio, non abbiamo tantissimo tempo, ti volevo chiedere una battuta sul vertice che è in programma domenica, che come sappiamo è stato inizialmente previsto per il 17 ottobre, è stato poi posticipato a domenica 23. I consigli Ecofin e dell'Eurogruppo si riuniranno prima del vertice. Secondo te uscirà qualcosa di positivo e soprattutto un po' di ottimismo? Ma di positivo è augurabile. La novità della serata è che è già stato di fatto convocato un altro vertice, sempre del Consiglio europeo, cioè dei capi di Stato e di governo dei paesi aderenti, dei 27 dell'Unione europea, che si terrà mercoledì, in previsione del fatto che domenica ci potrà essere soltanto un accordo politico generale di massima, ma non su tutti i dettagli. Naturalmente sappiamo che nei dettagli ci sta il diavolo, e nei dettagli tecnici, quando qualche politico dice ma questi sono dettagli tecnici, poi ne discuteremo, vuol dire che non sono d'accordo quasi su nulla. I due argomenti sui quali sostanzialmente non c'è accordo, essenzialmente fra Francia e Germania, nonostante quello che dicono Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, è sulla dimensione dell'attività, sull'ampiezza dell'intervento del fondo salva stati, da un lato, e dall'altro quanto chiedere alle banche che detengono titoli greci, quanto chiedere di taglio del valore nominale dei titoli che detengono per sostituirli con altri titoli a scadenza più lunga. Credo che siamo arrivati in conclusione, perché se non sbaglio non abbiamo più tempo. Annalisa? Sì, dobbiamo purtroppo chiudere, siamo giunti in conclusione. Ringraziamo Antonio per il suo contributo alla trasmissione di questa sera, ci scusiamo ancora per il disguido tecnico, problemi tecnici che abbiamo avuto in apertura. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie soprattutto delle tantissime novità che ci hai portato. Buona serata e buon lavoro. Ma non sono stato io a produrle. Certo. No, grazie Antonio, come sempre, speriamo di riaverti ai nostri microfoni prossimamente, e buon lavoro. Con piacere, arrivederci. A risentirci. Annalisa, Alessandra, non ci resta che chiudere e dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori alla prossima puntata. A risentirci. Buona serata a tutti. marchaste tu barco de papel, diciendo que el amor tiene sus dudas.